Questo vertice servirà a diverse cose ovviamente, ma sicuramente la più importante è la stesura, la scrittura del cosiddetto libro delle regole relativo appunto alla COP21 di Parigi. Cioè a Parigi ci si sono dati degli obiettivi e adesso siamo, la politica, i leader riuniti in Polonia sono chiamati a darsi delle regole per rispettare questi obiettivi e anche degli obiettivi di taglio delle emissioni e di quota di energia da fonti rinnovabili che ci dovranno poi portare a rispettare gli accordi di Parigi e quindi mantenere l'aumento di temperatura entro 1,5 gradi. Nel frattempo sono successe un po' di cose, ad esempio gli Stati Uniti sono tornati indietro, questo influisce anche sulla riuscita di questo vertice? Sicuramente la retromarcia di Trump e degli Stati Uniti non è una notizia positiva per gli accordi di Parigi, però è anche vero che subito dopo le dichiarazioni di Trump c'è stata un'ondata di invece impegni volontari e concreti da parte di sindaci, di governatori locali, di aziende in America che hanno detto chiaramente che sebbene Trump non voglia ufficialmente rispettare gli accordi di Parigi, tutte queste realtà lo vogliono fare. Quindi in sostanza l'impegno dell'America non è più a nome del presidente, ma c'è a nome di tutti quelli che sono poi attori fondamentali perché tutto questo riesca. E quindi appunto aziende, sindaci, governatori locali. L'importante è che tutto il resto della politica dia invece l'esempio, a cominciare dall'Unione Europea e da tutti gli Stati membri, fra cui l'Italia, perché nessuno deve andare, diciamo, dietro a queste scellerate politiche di Trump. Ma in questi 3 anni che anticipano il vertice che comincia oggi, qualcuno ha già cominciato a muoversi in modo virtuoso e positivo? Beh sì, sono tanti gli attori che si sono iniziati a muovere. Tantissime, ad esempio, compagnie assicurative e banche negli ultimi anni hanno disinvestito dal carbone. Il carbone è la più inquinante di tutte le energie fossili, quindi anche più di petrolio e gas, che sono comunque estremamente dannose per il clima e per la salute. E però è fondamentale che questi attori finanziari si stiano tirando fuori da questo settore che non ha più neppure redditività economica. E fra gli attori, per esempio, per rimanere in Italia, possiamo citare Assicurazioni Generali, che è il più grande gruppo assicurativo italiano, che era molto pesantemente coinvolto in questo settore, sia in termini di finanziari, quindi di investimenti, che in termini assicurativi, quindi fornendo copertura a centrali a carbone, miniere a carbone. Bene, Generali ha fatto un passo concreto ed importante per abbandonare questo settore, anche se ha ancora alcuni punti deboli, diciamo, soprattutto in Polonia, che è il paese che ospita la COP24, in Repubblica Ceca, però ci si aspetta che abbandoni presto del tutto questa fonte. Quindi sono tanti gli attori, anche al di là della politica, che si stanno iniziando a muovere, e questo è il motivo per cui c'è ancora speranza di fare quello che la scienza ci chiede, cioè appunto mantenere l'aumento di temperatura entro 1,5 gradi. Ecco, a proposito di scienza, l'8 ottobre scorso gli scienziati ONU hanno lanciato un allarme dicendo che bisogna fare presto, altrimenti ci saranno disastri, e il vostro direttore generale Onufrio ha detto non ci sono più scuse, quindi non solo bisogna fare qualcosa ma anche in tempo breve? Beh sì, il messaggio più importante che ci ha dato l'IPCC è che si può fare, ma si deve fare subito. La variabile più scarsa in tutto questo scenario è il tempo. Non abbiamo tempo da perdere. Gli scienziati hanno detto abbiamo 12 anni per mettere in campo tutte le azioni necessarie, ma questo non deve significare aspettare l'ottavo, nono, decimo, undicesimo anno. Significa assolutamente farlo immediatamente, perché sono tante le cose da fare, e se non si inizia subito non ci si arriverà mai a fare appunto quello che la scienza ci chiede. Però la possibilità di farlo c'è, e quindi ora serve solamente impegno e concretezza. A proposito delle tante cose da fare, come Greenpeace, quali indicate come priorità? Beh, sicuramente a livello mondiale l'abbandono del carbone è fondamentale, è il primo combustibile fossile che deve essere abbandonato, ma subito dopo petrolio e gas. E il gas, quest'ultimo, viene spesso venduto come la soluzione pulita e il combustibile di transizione per la rivoluzione energetica. Attenzione, perché è vero, è un combustibile di transizione, ma non è pulito, quindi questa transizione deve essere molto rapida e fatta verso un mondo 100% rinnovabile in tempi stretti. È possibile, sempre facendo riferimento a dati scientifici, ma non dobbiamo bloccarci in tecnologie ormai superate e inquinanti come i combustibili fossili. In tutto questo c'è anche ovviamente il settore dei trasporti, c'è il settore degli allevamenti intensivi e c'è anche il settore dell'agricoltura, che sono fondamentali soprattutto in termini di deforestazione, sono tutte cose che vanno fatte rapidamente. Tu prima citavi alcuni passaggi importanti del mondo, diciamo, produttivo o della società civile, ma in tutto questo l'incognita rimangono i governi. Insomma, usciamo dalla crisi economica, c'è chi dice che ancora non ne siamo usciti, e spesso le misure a favore del clima vengono vissute come un ostacolo alla ripresa economica. È così? Assolutamente no, se noi solo contabilizzassimo gli incentivi che vengono dati alle energie sporche e li riuscissimo ad eliminare, avremmo una vita molto molto meno tassata. Stiamo parlando, secondo un report fatto dal Ministero dell'Ambiente, di circa 16 miliardi di euro che vengono dati ad attività ambientalmente dannose. Il 90% di questi riguardano l'energia, ed è un dato del Ministero, e stiamo parlando di tantissimi soldi, molti di più di quelli che vengano dati alle energie rinnovabili. Detto questo, oltretutto oramai abbiamo un modello energetico e delle tecnologie, quindi solare, eolico, idroelettrico, che sono più che competitive rispetto alle energie fossili, quindi un mondo che vada nella direzione delle rinnovabili e dell'efficienza energetica è un mondo con meno tasse, è un mondo con bollette elettriche più basse, e soprattutto dobbiamo anche considerare quelli che sono gli impatti sanitari di carbone, petrolio e gas, perché ogni volta che bruciamo questi combustibili per fare energia inquiniamo l'aria che respiriamo, e quindi non parliamo solamente di impatti ambientali ma anche di grandissimi impatti sanitari, che sono già di per sé un dramma ma vengono poi anche ad essere un costo per la collettività. Luca, poco fa ci parlavi anche dell'impatto sanitario che i cambiamenti climatici producono, ad esempio con l'inquinamento mi viene in mente. Quello che ti volevo chiedere è se negli ultimi anni è aumentata, almeno nella cittadinanza, insomma, la sensibilità, la consapevolezza su questi temi, e se soprattutto se si è tradotta in comportamenti concreti. Sicuramente noi cittadini abbiamo in mano un potere molto grande, ce lo abbiamo ad esempio quando andiamo a votare, ce lo abbiamo quando compriamo, consumiamo, cosa compriamo e quanto compriamo, ma ce lo abbiamo in realtà anche nella produzione di energia. Noi spingiamo e proponiamo come Greenpeace e con tante altre associazioni ambientaliste un modello energetico in cui il cittadino non sia più solamente un consumatore, qualcuno che utilizza l'elettricità e paga la bolletta, ma qualcuno che contribuisce a produrla questa elettricità, i cosiddetti energy citizen, ossia ognuno di noi, anche vivendo in condominio, anche sulla propria attività economica, può diventare un produttore di energia utilizzando fonti rinnovabili, il classico ad esempio pannello fotovoltaico sul tetto, e contribuire così a pulire l'energia che utilizziamo, diventare un consumatore consapevole e nuovamente abbassare la propria bolletta economica. Quindi noi cittadini abbiamo davvero un potere molto grande in tante fasi, e spesso forse un pochino lo ignoriamo o non lo usiamo al massimo. C'è una parola che viene sempre più utilizzata negli ultimi anni che è resilienza, questo anche a fronte della violenza, no? Di fenomeni atmosferici e climatici che iniziamo a vivere anche in Italia, anche nei nostri territori. Anche se riuscissimo a contenere l'aumento delle temperature entro un grado e mezzo, comunque dovremmo mettere in atto strategie di resilienza? Assolutamente sì, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici sono entrambe cose fondamentali, quindi sicuramente è un aspetto che va considerato. Peraltro siamo sempre più esposti, anche come Italia, a eventi meteorologici estremi, che siano siccità o che siano alluvioni, trombe d'aria e altre cose che purtroppo leggiamo costantemente sui giornali. Uno dei problemi è che li abbiamo iniziati a chiamare maltempo anziché effetti dei cambiamenti climatici. C'era un periodo in cui i cambiamenti climatici erano un qualcosa di lontano, lontano che riguardava i nostri figli, nipoti, generazioni future, orsi polari e ghiacci artici. Oggi è drammaticamente sulle nostre teste, nelle nostre città, però lo abbiamo iniziato a chiamare quasi sempre, costantemente, maltempo, perché al maltempo è più difficile trovare dei responsabili. Invece dovremmo iniziare a chiamarli cambiamenti climatici, effetti dei cambiamenti climatici, perché ovviamente questi fenomeni esistevano anche prima, ma ora la scienza dice, con l'aggravarsi dei cambiamenti climatici, ne aumenta la potenza, quindi l'intensità, ed anche la frequenza, quindi il numero di volte che accadono. Tutto questo ha delle cause, ha dei responsabili ed ha anche delle soluzioni. Per questo motivo è opportuno dare i giusti nomi alle cose. Due ultime cose. La prima riguarda gli attivisti di Greenpeace che, in seguito ad un'azione, sono stati arrestati in Slovacchia. Chiedo di raccontarci un po' questa storia, perché chiedete ovviamente la liberazione. Sì, questa storia ha purtroppo dell'assurdo. 12 attivisti hanno fatto una protesta pacifica e non violenta su una torre mineraria all'interno di una miniera di lignite. La lignite, peraltro, è il più inquinante tipo di carbone che esiste. Questi attivisti sono stati prima identificati e poi arrestati, e adesso rischiano 5 anni di carcere. Oltretutto, proprio ieri è stato deciso dal tribunale slovacco di mantenere in detenzione tutti gli attivisti fino all'inizio del processo. Si parla di tanti mesi, almeno 6, in cui queste persone, che hanno protestato pacificamente per tutti noi, portando dei messaggi supportati dalla scienza e senza causare alcun danno a persone, a strutture, ad attività economiche, bene, queste persone rischiano di passare i prossimi 6 mesi in un carcere in Slovacchia in attesa di un processo. Questo è assolutamente ingiusto. Queste persone dovrebbero essere ascoltate, perché stanno portando un messaggio di milioni di cittadini che oramai spesso si riversano in piazza in tutto il mondo per protestare contro le poche azioni climatiche dei governi o delle aziende, e invece di essere ascoltati vengono prima detenuti e poi arrestati in attesa del processo. Noi chiediamo ovviamente che vengano scarcerati immediatamente. Ecco, un'ultima cosa, allora, quali aspettative per una buona riuscita di questo vertice ci sono? Beh, questo si vedrà con l'avanzare delle negoziazioni. Sicuramente è un vertice che ha dei paradossi, nel senso che viene svolto in Polonia, che è il paese in Europa con maggiore impatto ambientale legato al carbone. In particolare si svolge nell'area carbonifera della Polonia, quindi anche questo è un messaggio chiaro. Però ci aspettiamo che paesi come l'Italia, o in generale l'Unione Europea e anche tanti altri, riescano ad alzare l'asticella delle ambizioni politiche, anche perché fuori dalla COP24 c'è un mondo, la cosiddetta società civile, le persone, i cittadini, ma anche appunto le aziende, le cooperative energetiche, che stanno davvero mettendo pressione sulla politica perché non tradisca quegli impegni che sono stati siglati a Parigi e che adesso devono diventare concreti.